42, bentrovate e bentrovati alla nostra oretta settimanale di Teologia Estrema con le ore di religione. Ritorniamo dopo le due puntate speciali dedicate alla spiritualità, alla religiosità e non solo in quella del Paese del Sollevante. Ritorniamo a casa nostra, come già annunciato 7 giorni fa, per parlare di un appuntamento molto importante per quanto ci riguarda, ovvero sia la creazione di due santi molto molto rilevanti per quanto concerne il cattolicesimo contemporaneo. Uno dirà: certo, tutti i santi sono importanti, questi lo sono un po' più di altri. Stiamo parlando di chi? Di un papa. E che papa? Paolo VI, fra l'altro il papa del caso Moro, quindi siamo perfettamente, diciamo, in tema anche con i vari anniversari che si celebrano in questi giorni. L'altro personaggio è ugualmente molto importante, sia in generale per quel che concerne il mondo cattolico, sia anche specificamente per quello che riguarda i nostri campi di investigazione, ed è il vescovo Romero, trucidato in Salvador proprio mentre stava svolgendo il suo mandato evangelico. La cui storia abbiamo raccontato più volte perché è molto molto interessante, e che sarà santificato da questo papa, un santo sudamericano, o per un papa sudamericano. Insomma, più volte abbiamo rimarcato quanto fosse importante tutto ciò, lo facciamo anche oggi, no? Sì, poi dunque, buonasera. Si sono anche, diciamo, incrociati indirettamente. Sì. Dunque, per quanto riguarda tutta la vicenda di Romero, mi sa che abbiamo una trasmissione. Sì, sì, più di una, perché abbiamo fatto la beatificazione, il viaggio, insomma, giustamente abbiamo seguito la vicenda. Abbiamo abbastanza ricordato chi fu. Adesso facciamo solo un rewind. Tanto c'è tutto online, potete ritrovare, sì, tutto. Mettete le ore di religione, Romero, la ritrovate. Mm. Usiamo ogni tanto internet anche per le cose utili, ecco. Dunque, allora, accostare, diciamo, intanto non sono solo loro due, ci sono anche altri due, diciamo, tra virgolette, minori, nel senso che non hanno cariche così importanti e non hanno poi avuto una vita trascendentale, ecco, diciamo, sì. Anche se trascendente, dovrebbero averla avuta, almeno trascendente nell'immagine, così che, sì, che però uno è sono due, appunto, sono due figure minori legate a sempre al clero e alla loro attività così di pastorale verso l'evangelizzazione dei popoli, ecco. Quindi uno è della fine del Settecento e un altro è morto nel 1913, insomma. Quindi sempre un uomo del XIX secolo, no, stavo dicendo il secolo scorso, ormai no. Però ormai non si può proprio più. Del 2018, ormai è il secolo scorso. No. Di cui non ci occupiamo particolarmente perché sono, diciamo, semplicemente dei nomi che stanno, faccio una sintesi estrema per far capire ai nostri ascoltatori, quelli che non sanno, perché noi queste cose le abbiamo affrontate, come una pila di cartelle contenenti tutte le cause in attesa ai vari stadi. Questo è l'ultimo perché sono quelli in attesa, diciamo, dell'ultimo balzo verso appunto la santificazione, la canonizzazione. Quindi vuol dire che hanno tre miracoli a carico. Romero è un po' particolare perché è un martire. E quindi è diverso, non sì, c'è infatti, bisogno del miracolo. Infatti è stato prima stabilito che è stato ucciso si dice in odium fidei, cioè in odio della fede. quindi proprio per uno che è stato ammazzato mentre faceva messa nella cattedrale di El Salvador, perché erano sicuri di trovarlo, certo, diciamo, sì. Quantomeno inerme. E quindi questa cosa ovviamente lo colloca nel, così, nella tradizione quella arcaica, diciamo, dei marti della prima epoca, che ovviamente molto spesso sono del tutto, diciamo, immaginari. Nel caso in questione invece abbiamo un riscontro storico. Qui c'è un riscontro storico e peraltro, insomma, è una roba appunto che avviene nell'80, quindi recentissima. Molti lo ricordano anche così per averlo letto sui giornali, certo. Insomma, e quindi il fatto c'è, ecco, diciamo, ovviamente per chi non ha interessi religiosi la cosa fa parte di un delitto politico gravissimo, ovviamente per quello che è lo scenario, ecco, diciamo, della politica di quel periodo. Scenario terrificante, perché il Salvador degli anni Ottanta è stato un mattatoio. Esattamente, beh, da prima. Sì, sì, insomma. Diciamo, insomma, ecco, anzi poi dopo ancora di più, perché Romero è anche zittito, diciamo, ecco. Adesso, certo, poi lo ricordiamo. È un tappo che poi quando salta pure lui vuol dire che proprio la situazione è completamente fuori controllo. Diciamo, più di lui non c'era nessuno. Dovevi sparare al Papa. Però ecco, sì. Non era il caso in quell'ambito. Sì, poi fu fatto l'anno dopo. Altri ci hanno provato, vabbè, però per altri motivi. Diciamo, comunque il clima. Sì, il clima era quello, scoppiettante, sì, si sparava abbastanza tranquillamente. Ecco. Allora, dunque, dicevo, quindi per Romero, che è, diciamo, è in odium fide, quindi c'ha una sua, c'ha un iter diverso, è appunto un martire. Ricordiamo, martire, diciamo, dal greco viene testimone proprio, quindi lui si muore per non rinnegare la propria fede. E quindi questo è un riconoscimento, diciamo, immediato. Questa cosa ovviamente ha fatto molto pensare, proprio perché tantissima diciamo letteratura sia giornalistica che anche di saggistica a vari livelli è stata ovviamente pubblicata da subito dopo la morte, perché diciamo, un'attesa in questo caso non era certo così nei parametri della Chiesa, che sulla canonizzazione aveva avuto fino a diciamo tempi pre-voitiliani, così, delle misure abbastanza dilatate, sviluppando ricerche per i tempi che poi appunto sono propri della Chiesa Cattolica, che non si preoccupava diciamo del contingente. Montini invece appunto ha avuto un iter classico, ma anche lui è un po' anomalo, perché è un papa e quindi non è propriamente, diciamo, una figura laterale del clero, ma di punta, ed è il vertice. È interessante che così molto banalmente è stato beatificato prima il suo successore, in realtà non Luciani, ma insomma. No. Beh, Luciani è troppo poco. No, Luciani non è possibile fare nulla, perché non ha. A meno che non sia stato veramente assassinato, cosa che abbiamo, diciamo, tendiamo a escludere. Sì, con. Col beneficio del dubbio, ma insomma, tendiamo a escludere, mettiamola così. Io lo metto, perché metto il dubbio su qualunque cosa per motivi scientifici, nel senso, sì, no, ecco, che noi utilizziamo questa forma. Però ecco, chiaramente è morto per affari suoi. Ricordiamolo, tutto il qui pro quo è dovuto al fatto che lui morì di notte nel sonno, probabilmente, quando lui intorno a sé, Luciani, aveva non solo lui, quattro suore e ovviamente un segretario particolare e tutti quelli a sua disposizione, e queste quattro suore avevano ovviamente la cura della persona, quindi penso facessero quello che fa una colf, diciamo, di altissimo livello in case private. E quindi gli viene dato quella mattina, come sempre, molto presto, un caffè che viene lasciato fuori dalla porta, perché non è che una suora va a svegliare il Papa. Quando la suora ripassa, vede che il caffè è lì freddo, entra ovviamente perché sospetta, e lo trova morto. Esatto. Per non far così divulgare dai giornali la notizia che una suora era entrata nella stanza del Papa mentre... Perché era un problema questo. Era un problema, fu fatta un po' di... nebbia nella letteratura sul sì, caffè nel racconto, e quindi venne detto che entrò invece il suo segretario. Fu corretta la postura di Luciani, modificato quello che aveva tra le mani, gli misero, che non era vero, mi sembra L'imitazione di Cristo, insomma una di questi libri edificanti molto ottocentesco, certo. Mentre invece stava leggendo, credo, credo nel senso, tu non c'eri, non c'era, non ti hanno fatto entrare, ha detto che aveva dei documenti, che mi sembra un discorso che stava scrivendo, non mi ricordo nelle dichiarazioni, però sostanzialmente queste notizie sono state divulgate solo pochissimi anni fa, perché l'ultima delle quattro suore viventi ha deciso di parlare, o perlomeno gli è stato detto è ora che tu parli, perché appunto questo caffè che stava fuori di Sindone, esattamente, insomma, fece sì che da subito David Yallop scrisse il famoso libro in cui tutto sembrava andare al posto giusto, combaciare perfettamente, e in parte, a parte l'evento dell'omicidio, tutto era vero, nel senso che lui stava lavorando sicuramente per capire la situazione dello IOR, anche perché non era una cosa da poco. Mentre dopo il successore, 33 giorni dopo, in realtà c'è il funerale di Luciani, il conclave, insomma, quindi, però viene eletto non molto tempo dopo, ed è di fatto il vero successore di Wojtyla, perché quel pontificato è così breve da non aver lasciato traccia, tranne ovviamente per questo fatto che è stato morto improvvisamente. Tutto è stato concentrato sul fatto che voleva mettere le mani sulla questione dello scandalo IOR. Certamente. E poi perché disse appunto che Dio è anche mamma, oltre che papà. E questa fu. E questa cosa fu presa un po' male da quegli ambienti appunto ancora forti che ci sono tuttora, che temevano. Che si fosse messo qualche grillo per la testa, eccessivo. Quale passaggio successivo avrebbe condotto questa affermazione? Un'affermazione del tutto legittima, nel senso che vuol dire semplicemente che non è né padre né madre, perché in teoria non credo che sia sessuato, almeno non dovrebbe. Sì, nella teologia anche blanda da catechismo a 8 anni, di terza elementare. Ma in realtà così non è, perché ovviamente nell'immaginario è per tutti un maschio, è un vecchio con la barba, è il padre, viene chiamato sempre padre, e il figlio è anche lui un primogenito maschio, quindi si sono un po' cacciati da subito nei guai, anche se ovviamente non ha una connotazione. Quindi lui avrebbe semplicemente ricordato che bisogna separare così l'immaginario da una realtà, aggiungendo in una forma molto colloquiale questo aspetto anche femminile. Questo perché ricordiamo, siamo appunto nel settembre del 78 e quindi c'era un c'era Moro tre mesi prima, a parte le donne in particolare, che avevano ottenuto grandi successi nelle contestazioni che avevano preso un corpo nel senso pieno, fisico, l'aborto ci sta per essere nelle piazze, e quindi c'era stato il divorzio appunto e la legge 194 proprio nel 78, e quindi in questo modo si voleva tentare di non perdere il contatto con la realtà femminile del mondo cattolico, perché c'era una teologia femminista di cui ovviamente Luciani, ma tutti, erano più o meno al corrente. Quindi volevo dire che è interessante che invece il successore, come ho detto, vero di pontificato operativo, anche più lungo, fu appunto Wojtyla, che è stato invece santificato prima, molto prima, e soprattutto molto rapidamente, perché quasi in vita, perché nel mentre dell'agonia già si invocava esattamente, il tempo è stato solo tecnico sostanzialmente, quindi in questo caso imitando, volevo mettere in risalto questo, i modi arcaici, perché appunto prima, molto prima che tutto questo scenario si prendesse la forma tridentina e poi ovviamente rivista nel Novecento con il Vaticano II, ma in generale la Chiesa moderna, nell'antico, specialmente proprio quelli, diciamo, mille anni fa e più, era normale che quando così una persona della chiesa era santo già da vivo, era riconosciuta come appunto molto capace di testimoniare secondo il sentimento dell'epoca il messaggio cristiano, veniva acclamato santo appena morto, perché appunto era anche da prima sentito come un santo, ecco. Quindi questa procedura infatti è quella classica della comunità che lo riconosce come tale. Quindi alle origini la Chiesa in qualche modo paradossalmente aveva delle forme, non dico democratiche, ma insomma meno istituzionalizzate e gerarchizzate di quelle che prende. Però perché? Perché appunto questo tipo di modalità prestavano il fianco anche a manipolazioni delle folle, o almeno si temeva che questo potesse accadere. E paradossalmente è quello che è proprio successo con Wojtyla, nel senso che è stato proprio manipolato, questo lo sappiamo, da una fetta importantissima della Chiesa, quell'acclamazione alla morte, il famoso grido santo subito al funerale, che voleva proprio richiamare queste modalità, ma proprio organizzate, perché quindi parliamo di clacca vera e propria, di tutta quella componente che stava intorno alla sua figura e che attraverso la sua figura dal 78 al 2005, quando quasi 30 anni, sì, morì, aveva ottenuto notevoli risultati da un punto di vista ovviamente di una chiesa del tutto conservatrice e reazionaria e anche molto violenta verso se stessa, cioè nelle parti in cui le sue componenti erano, come dire, tendenti a una non ortodossia o addirittura all'eresia. E quindi, come dire, quello per cui fu strutturato il processo canonico di beatificazione, la procedura classica, con addirittura a un certo punto della storia l'introduzione dell'avvocato del diavolo, che appunto doveva dimostrare che non era vero e quindi trovare tutti i cavilli possibili per almeno formalmente, invece. Ecco, questa cosa, a parte che viene abolita da Wojtyla, proprio l'avvocato del diavolo, e quindi preparandosi il se stesso, sì, e soprattutto poi lui, come tutti sappiamo, perché anche qui abbiamo dedicato anni di puntate, ha fatto più di 1300 santi e beati, che è un numero superiore a tutti quelli fatti dalla Trento a oggi messi insieme.